A pochi sarà sfuggita la notizia riferita da parecchi giornali concernenti l'arresto di uno stupratore a Malaga. Sarà sfuggita a pochi non tanto per la vigilanza generale nei confronti di questo reato particolarmente odioso, ma piuttosto per il modo in cui la notizia è stata presentata. Infatti, del bruto andaluso arrestato in seguito alla segnalazione della vittima, i giornali hanno fatto a gara per chi meglio e con maggiore evidenza riusciva ad evidenziare una caratteristica curiosa e nel caso fondamentale. Lo stupratore, a quanto giurano, aveva due peni, nel senso di due membri virili. Immagino che l'argomento verrà ripreso come attenuante in fase di processo dall'avvocato difensore di turno: l'infanzia infelice, questo dramma anatomico e fisiologico, il trauma psichico, due pipì a letto, due operazioni di fimosi eventualmente, e via via altri traumi. Nel confezionare la notizia, comunque, va segnalata la particolare ignominia della stampa di Torino, che, come spesso avviene per altri versi nei casi di stupro, riesce ad offendere la vittima buttando in facezia il dramma che da questa è stato vissuto. E lo fa in grazie di un titolo mirabolante davvero. Arrestato stupratore dotato di due peni, titola. Ma, ahi noi, non resiste alla tentazione di virgolettare, per cui diventa arrestato stupratore dotato, fra virgolette, di due peni. In merito al noto processo di metaforizzazione, quel dotato, per il quale parlare oggi di un uomo dotato equivale a vantarne la dimensione del pene e di null'altro, come se questa caratteristica potesse riassumere in sé tutti i possibili pregi della razza maschia. Il titolista della stampa al dramma subito non alza neppure un sopracciglio e va dritto alla battuta grassa. Pelo sullo stomaco, disinvoltura e cinismo traducono in 4 e 4 8 la vita in avanspettacolo.